Sono Emma Bonino, ministro per le politiche europee. Gli incidenti sulle strade sono stati drasticamente ridotti in Europa, ci sono riusciti in paesi come Francia e Germania. Dobbiamo riuscirci anche noi e subito. Rispetta le regole, per rispettare te stesso e gli altri. Campagna a cura del governo, Ministero dei Trasporti.